fa? Chiede non mi mandare antenne, io non gli do curi di nanna al corriere. Questo sta lì. Tu cosa hai detto? Se non mi manda l'antenna, io come faccio a dargli soldi al corriere? È contrassegno. Quando arrivo quando arriva l'antenna la pago al corriere, no? Continente, mi ha telefonato lui, adesso non mi ricordo che ditta è, comunque già, come la spedisce. E poi nella bolla quando mi dà l'antenna scrivo, salvo, verifica di controllo, farò sicuro, perché io trasportavo quelli e la sola situazione, no? Sei defittosa, so cazzi detto. Io so cavolo di dove, non so cavolo detto, no? No. Io gli metto salvo, verifica di controllo nella bolla. Beh, ce lo puoi aprire il pacco al momento, sì, ma io il corriere, già lo sai com'è, deve far veloce pure. Ma una volta che tu gli metti la notazione sulla bolla, stai dicendo che per te va bene finché non la controlli, capito? Ragazzi, ho capito. Ma così. Vabbè, meno male dai, che cosa narrana però, hanno la belli. Finita. Cosa stavi prendendo? La 5, la provata per miracolo, la non hanno più, no? La 5 si sta prendendo. La 5, mi sono sbagliato. Sto prendendo la 5, la provata per miracolo. Allora non di per miracolo. Vabbè dai, ci siamo detto che sono arrivato a casa, dai. Allora, c'è una salita, ce la risentiamo. Capito, ma lo senti tu a Natalino, Davide? Ma non lo sento. Ma passo, e lui mi sente, niente. Ha detto che è arrivato nel cancello di casa. Non la vuoi fine, Davide, conviene pigliare la 1, conviene pigliare. Ma tanto, sono uguali lì come antenne. Arriva la bomba, lui salendo anche, ieri lo sto guardando attentamente, salendo lì via Carlo Felice, 9.10, 9.20, mica non è poco mi dà la moto. Io non so. Vedere a che punto di vista l'hanno visto loro lo smitter. Noi Russino, e poi è a suve. A mio parere non ha perso nulla. Dentro Sassari lo sento un bel forte, come prima, come sempre lui arriva, fortissimo. E ti puoi immaginare, cioè te ne accorgi da lì, te ne accorgi. Sai che io, Davide, io tu lo sai che io viaggio tutti i giorni, c'è sempre il baracchino appresso. Se lo dico io vuol dire che è così. Arriva un bel forte, arrivi. E meglio così allora. Mira, tu di pure così, se no non dico una cosa fa un'altra. No, già ci credo. Secondo me va alla grande. Anzi, mi pare pure un mese più forte di prima, a mio parere. Perché io ce l'ho sempre la faccia, lo smitter, lo vedo cosa è. Magari gli altri so sempre cugino, una parita ni non una parita nemmeno. Io anche quando sto modulando adesso, sto guardando lo smitto, se c'è qualche cosa che non va, e va con lo scala come è successo l'altra volta, me ne accorgo subito. Meglio così. Ma, chiamando ti stanno a me. Lo so, mi ha chiamato ora. Esce mi sposto, ma ora 5 minuti. Ci risentiamo più tardi, ma su lì ci mi spostate. Penso di sì. Ok, io controllo tutte e due a casa, no? A più tardi, se coincide. Ma dai, dai, dai, se magari ci risentiamo sul 10. Ma ci sei? Sto provando l'apparecchio, qualcuno mi sente? Avanti. Come esco? Bene. Che zona sei? Vinigheto, K. Io sono via Milano. Sì, stai arrivando bene, non c'è problema. Grazie. Non rispetta nessuno, lascia chiuso. E cosa fai, cazzo, cerchi, cazzo, a fare qualche duro, cazzo? E non c'è nessuno, cazzo. Bene, bene, cerchiamo. Già che vuole entrare, avanti. E quante ore è entrare con 1.05? Non mezzo, non mezzo, non mezzo. A buon punto si ammalava, a buon punto si ammalava, a buon punto si ammalava, a buon punto si ammalava. Avanti 27.05. Oh. Grappa numero 3. Non ti preoccupare, sarà fatto, sarà fatto, non ti preoccupare. Poi tutte quelle cose che hai detto anche l'altra volta, vedete, li posso mangiare. Ma cosa vuoi che ti dica? Se vuoi venire, io problemi non ne ho. Anche oggi, anche adesso. Anche adesso. Anche adesso. Io mezzo non ero di trasporto, però tu il mezzo di trasporto ce lo vai, ce l'hai. Se vuoi venire. Via Monte Grappa. Sì. Via Cerfetto. Ma quello hai dato tante volte, però. Tranquillo che io ci sì, perché mi sono anche informato, vai a via giusta, vai. Ti sei formato male, ti sei formato male, io abito via Monte Grappa 3, magari i problemi non so come sono andati, io abito via Monte Grappa 3. Non ti preoccupare, già ci troviamo, ci troviamo. Tutte quelle parole che mi hai detto anche l'altra volta, ti posso mangiare quei interessi. Io te li anticipo gli interessi, te li anticipo gli interessi, capito? Solo che... Prendiamo la mano però. Favela e... stiamo parlando dietro al microfono. Io ti ho detto, anche adesso. Se vuoi venire a trovarmi, abito in via Monte Grappa 3. Via Monte Grappa 3. Non ci sta. Lascia la vivo per vedere venire qua, tu è... perché non ti conosco. E la campanella di acqua, che ti senta per tutti due metri. Capito? Ah? Riprendi quella. Perfetta. Bella, riprendi. Ma non c'è nessuno che fa. attaccare in Italia. Con tua macchina non mi vale. Allora. Andiamo un po', aspetta. Quando c'ha troppi watt non... Vabbè, se lo vedo, non c'è molto, molto meglio, vabbè, diciamo che c'è meglio a prenderle, ci metti di più. Ma anche Arullo, sono saluto, esce bene. Sì, ma Arullo te la fa... non te la fa liscia, capito? La camera da letto non la puoi fare Arullo. Vabbè, ci sono tanti tipi di rullo già, E poi mi sgocciola, me la posso usare bene. Vabbè. Vabbè. Se un po' ti metti roba in terra, non so, boh. Nylon. Non sei cartone. Ma no, ti per fare. Fanno un calcolo approssimativo di quante coppie può fare dopo un 2.8